Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ciao, sono Anna. Anna Baker. There's not a simple explanation for the things that I feel. Esatto. Non smanettate sul qualunque cosa stiate usando per ascoltare. Sono io, in diretta e stereo. Nessuna replica, nessun bis e questa volta assolutamente nessuna richiesta. Quanti dei genitori in ascolto hanno mai sentito parlare i loro figli di 13? 13 in quanto telefilm, in quanto storia raccontata attraverso Netflix. Quanti hanno figli adolescenti o figli ancora più piccoli o figli che hanno passato l'adolescenza ma sono rimasti fulminati, appassionati dalla storia di Anna, una giovane liceale di un liceo americano che si suicida. Non è sufficiente che lei si suicidi, ma motiva anche il suo suicidio attraverso un lascito di 13 audiocassette, quindi studia un sistema arcaico di trasmissione della propria volontà. Non la mette su Facebook, non fa dei post, non l'ha lasciato su WhatsApp, ma prende proprio delle audiocassette che nessuno sa più usare e lascia ai suoi compagni di classe ed altre persone queste 13 cassette incise sui due lati su quelli che sono i motivi perché si è suicidata. Mi sono suicidato per colpa vostra, ognuno di voi ha una sua colpa. E il telefilm che si snoda attraverso appunto i 13 doppi lati delle cassette, ogni volta c'è un episodio, ogni volta c'è una persona coinvolta, spiega come ognuno dei suoi compagni di classe ha una piccola parte di colpa nel suo suicidio. Questo sarebbe una storia come un'altra se non fosse che molti ragazzi, guardando questa serie televisiva, che naturalmente è fatta benissimo da un punto di vista della strutturazione, della costruzione, pensano che in realtà l'unica maniera per ottenere giustizia rispetto alle azioni di vessazione, di bullismo, di sopraffazione, quelle che leggiamo tutti i giorni, di cui abbiamo spesso parlato, la ragazza accusa un ragazzo al quale ha dato il suo primo bacio d'amore, innamorata, una notte romantica in un giardinetto, giocando sulle giostrine, beh, lui le ha fatto una foto mentre scende dallo scivolo in cui si intravedono le mutande e l'ha fatta girare fra i suoi amici come fosse l'oggetto di un vanto, di una conquista sessuale. Questa è la prima operazione, quella che comincia a farla entrare in un circolo perverso. Poi tutti gli altri hanno avuto un po' una colpa, le amiche, gli amici, tutte storie iperrealistiche, storie che leggiamo tutti i giorni nelle cronache dei giornali come elementi reali e concreti di atti estremi da parte di ragazzi. Ora non siamo dei censori, non diciamo abolite 13, ma vorremmo questa mattina spiegare a chi ci ascolta che forse un po' di cautela e qualche strumento di sostegno, soprattutto per i minori che guardano questa serie, ci vorrebbe. 800 24 00 24, ci sentiamo tra un istante. Intanto fate mente locale, chiedete ai vostri figli o se siete, per mia fortuna, giovani in ascolto, dateci il vostro contributo. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Io definirei l'ambiente all'interno della nostra scuola, per quanto ho sperimentato di persona, pessimo. Mi spintonano, mi sbattono contro i muri, mi chiudono dentro i gabinetti e mi tirano giù i pantaloni. Ha mai sentito qualcuno rivolgersi in modo sgradevole ad Anna? Sì, capitava molto spesso. Dicevano che era una facile e cose del genere. Zero zero ventiquattro. Quale idea voi vi fate, quale strumento, non dico di controllo, ma di reciproco argomento di condivisione di pareri avete con i vostri figli riguardo la loro visione televisiva? Netflix, il bello di Netflix, che non è legato al televisore. Netflix si guarda ovunque, te lo puoi guardare sullo smartphone, poi quando ti stanchi te lo guardi nel computer di lavoro, quando ti stanchi te lo vedi anche in televisione normalmente. E 13 è una serie che piace molto, anche perché è targettizzata, è mirata, i ragazzi si vedono riflettere nel loro quotidiano, anche problematico. Noi non stiamo dicendo, come ci dice Giuliana che già ci ha scritto, che per a causa di Treggi sono aumentati i suicidi giovanili. Stupido, una solita sapientona. Semplicemente diamo contezza di un problema che è sorto riguardo questa serie. È una serie che tutti possono vedere purché abbiano gli strumenti di maturità necessari. In Nuova Zelanda la vogliono proibire ai minori di 18 anni, non credo sia nemmeno questa la soluzione giusta, però parlarne, bisogna parlarne. Giovanna La Saputella, che già ci dice come dare la colpa a Marilyn Manson della strage Columbine, non è esattamente la stessa cosa. Giuliana, eccola, l'abbiamo beccata. Sì. Non vedo come a lei le venga in mente che io dico che 13 fa aumentare i suicidi. Ho detto che bisogna parlarne, semplicemente questo. No, ascolti, questa è una delle opinioni che è più diffuse al momento. Io non ho figli ma insegno, e quindi abbiamo parlato spesso con i ragazzi di questa serie. Quindi ne parla a scuola con i suoi ragazzi? Sì, sì. Che età hanno generale... i suoi ragazzi? Adolescenti. Quindi l'età del telefilm. Quindi i suoi ragazzi sono rimasti comunque colpiti da questa serie, perché li riflette in maniera realistica? Sì, assolutamente. E l'impressione da parte degli adulti di questa, riguardo alla serie, è sempre che incoraggi il suicidio. Vabbè, gli adulti hanno strumenti di lettura di questi fenomeni spesso molto rozzi e superficiali. Vabbè, più che altro non guardano la serie, non la guardano i titoli. Però allora resti in ascolto, Giuliana. Lei mi è utile, ho iniziato con uno spunto polemico, poi mi è utile averla lei. Perché? Perché in studio oggi ho Mauro Manca. Mauro Manca, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Mauro Manca la conoscete, è stata nostra ospite qualche tempo fa per parlare del suo ultimo libro sull'autolesionismo nell'era digitale, Alpes Edizioni, un problema di cui non si parla, nessuno parla, non si vuole parlare nelle scuole, i ragazzi si tagliano, si bucano, si pungono, si fanno del male e si piagano per dare un segnale visibile sul loro corpo e del loro disagio. Di questo ancora c'è molta reticenza a parlarne, come non si parlava di bullismo qualche anno fa. Mauro Manca, che è anche responsabile, direttrice responsabile della testata di psicologia www.adolescenza.it, qualcosa avrebbe da dire rispetto a 13. Mauro, sì, innanzitutto spiegaci cos'è 13, perché non tutti è detto che lo sappiano bene. Allora, 13 è la nuova serie televisiva che è stata prodotta da Selena Gomez. È anche importante dire questo perché Selena Gomez è l'idolo di milioni di adolescenti a livello mondiale, per cui nel momento in cui anche produce il loro idolo? Una serie, è un idolo per le canzoni, perché è una cantante e su Instagram è una delle più popolari in assoluto, per cui nel momento in cui anche ha prodotto una serie televisiva tutti hanno seguito quello che è la massa, per cui anche tanti ragazzi stanno guardando la serie solo perché lo guardano gli altri. C'è una sorta di invasione. Io voglio puntualizzare una cosa sul suicidio. Quello che dicono gli psicologi, e io faccio parte della categoria, non è che stanno accusando io stessa Netflix e la serie 13 perché è come causa di che producono un incremento. Non c'è un rapporto diretto. Quello che è preoccupante è che comunque non deve assolutamente passare il suicidio come l'unica modalità per uscire da condizioni di bullismo e di vittimizzazione sistematica, cioè di passare da quella condizione di impotenza dove Anna nella vita reale si vede puntata dopo puntata che non riesce a risolvere il suo problema, che ci tenta in tutti i modi e non ci riesce, fino a che non tenta questo suicidio, li rimette tra virgolette a bagno tutti quanti, cercando di cambiare la sua posizione da impotenza a potenza. Io, dal mio punto di vista di analista della televisione, è stato il mio lavoro passato in un'altra vita, dico che il problema potrebbe essere dal fatto che questa ragazza ci si scorda dopo mezz'ora che si sia suicidato, perché è sempre presente nei flashback. Sembra quasi che il suicidio non sia un suicidio reale, non sia morta, sia una sorta di grande rappresentazione per punire gli altri e risvegliare negli altri il senso di colpa perché lei è stata loro vittima. Però alla fine delle puntate c'è comunque l'immagine del suicidio violento. Questo i produttori lo sottolineano, che hanno intenzionalmente fatto vedere le immagini crude e nude proprio per lei far capire, si svena nella vasca da bagno. Esatto, per far capire la cruenza e non creare l'effetto emulazione o il famoso effetto Werther. Velocemente, Giuliana, invece lei con i suoi studenti a scuola in che termini ne parla di 13? Allora, intanto vorrei puntualizzare che non si tratta di una serie televisiva, ma che va su Netflix e quindi l'accesso non è immediato come quello che potrebbe essere. No, perché puntualizza, è proprio riservato a un pubblico più giovane, quindi il target era preciso. E direi che è più immediato, scusa, lo vedono sul telefonino anche a scuola, non hanno bisogno di un televisore. Poi diciamo, non sono d'accordo sul fatto che sia un'invasione, ma che tra di loro si consiglino su sai, c'è questa nuova serie interessante, quindi se è un passaparola tipo guardala che è interessante e non guardatela perché gli altri la guardano. Il marketing è stato fatto bene, mi sembra che sia perfetto. Sì, assolutamente, perché viene presentata come una serie interessante. Per quanto riguarda il fatto del suicidio come soluzione, in realtà la ragazza non cerca mai di risolvere nulla, e tra i ragazzi questo atteggiamento viene captato perfettamente. Man mano che vanno avanti le puntate, diventano sempre meno simpatetici, se vogliamo, nei confronti di Anna, e hanno un atteggiamento sempre più critico. Per esempio, ma perché non è intervenuta? Sì, però scusi, questo veniva, è giusto, sì, però fa sì che la vittima degli atti di bullismo, alla fine, nella percezione comune, è qualcuno che se l'è cercata. No, assolutamente. Sono d'accordo sul fatto. Allora, fermo un attimo, Giuliana. Non io, ho casualmente due giovani sotto mano, perché mi sono voluto fornire. Non sono adolescenti liceali, hanno già lasciato il liceo. Una è una ragazza finita l'università, l'altro è un ragazzo che sta studiando all'università. L'età media va fra i 21 e i 25 anni. Allora, Rachele, velocemente, sei d'accordo con l'insegnante? Io non sono d'accordo, però io devo premettere che ho visto parti della serie TV perché ho letto il libro. Perché nasce da un libro la serie TV. Da un libro, è stato pubblicato 10 anni fa. E Selena Gomez ha letto il libro ed è rimasta colpita dal messaggio trasmesso dal libro, messaggio tra l'altro che secondo me non traspare minimamente nella e serie qual TV. E qual era il messaggio del libro? Perché innanzitutto la serie TV finisce completamente in un modo completamente diverso rispetto al libro, perché nel libro il protagonista principale è solo Clay, questo ragazzo che ascolta le cassette. Che è il tipico nerd, quello timido, non sì. integrato. In realtà lui è abbastanza popolare. Lui dice fino a un anno fa pensavano che io fossi gay, doveva riscattarsi anche del fatto che tutti pensassero fossi gay, come tutte le vittime dei bulli naturalmente. Sì, anche se nel libro, anche questa è una particolarità, nel libro lui in realtà viene caratterizzato come un personaggio gentile, questa è l'unica caratterizzazione che Anna non dà di Clay. Come gli altri. No. E nel finale Clay, dopo aver ascoltato queste cassette, decide di intervenire su un'altra ragazza perché percepisce che anche questa ragazza potrebbe mostrare gli stessi segni, i segnali che lui non aveva, diciamo, colto in Anna. Quindi... Filippo invece ha visto tutta la serie, se l'hai vista bene, la tua prima impressione, ormai tu fai parte di una generazione post-adolescenziale, secondo te un adolescente ha gli strumenti per capire in fondo quello che vuol dire questa serie o ci può essere qualche pericolo? Beh, dipende anche un po' dal tipo di persona. Io onestamente mi riconosco moltissimo nel protagonista, ho avuto anch'io degli episodi un po' simili anche a quello che ha subito lui durante tutta la serie e anche ad altri ragazzi, quindi in parte sono riuscito a capire anch'io cosa voleva significare. Quindi è fatta bene, i personaggi sono studiati bene. Sì, diciamo che le situazioni sono delle situazioni che potrebbero capitare a tutti. Noi abbiamo sempre questa idea che il liceo sia il periodo più bello, dove si possono creare le amicizie eterne, dove tutto va bene. È un periodo di passaggio tra le medie, che possono essere un periodo bruttissimo, e l'università, che possono essere anche quello un periodo molto, come dire, bello. E noi mettiamo sempre il liceo come il periodo idilliaco, dove facciamo le grandi amicizie. Non è sempre per tutti. Non tutti quanti hanno, come dire, la fortuna di trovarsi in una situazione simile. Io per esempio ho avuto al liceo delle esperienze molto brutte che me l'hanno fatto odiare, un po' come dice sempre Clay durante tutta la serie, che il liceo è brutto, non gli piace il liceo, la gente che sta lì non è praticamente delle migliori, e quindi sì, mi ci riconosco, posso capire che vivere in un posto simile, vivere una situazione del periodo, un periodo della vita come quello liceale, non è facile per tutti. Però Maura manca, in realtà quello che dice Filippo, dice Rachele, mi sta bene. Ma rimane sempre che la soluzione, noi parliamo di una ragazza che si è suicidata, tutto questo è l'unico motivo per cui se ne parla, che si è suicidata, e a monte del suicidio ha messo su un'attività di elaborazione antecedente al suo suicidio, ma addirittura studiando l'audiocassetta, uno strumento arcaico che impone ai ragazzi di andarsi a cercare dei lettori di audiocassette che non hanno più nemmeno. Clay va dal padre: papà, c'hai un lettore di cassette? Va in cantina e trova una vecchia radio, poi avrà uno Walkman. Non è questo il punto, forse magari da un po' da dipanare. Esatto, quello che a noi preoccupa, poi bisogna inserirlo nel contesto storico, non dobbiamo parlare solo della serie, appunto, noi abbiamo detto televisiva, era implicito che parlassimo di streaming e quant'altro, perché nello stesso momento in cui va in onda questa serie c'è comunque un'escalation di suicidi per colpa del bullismo nelle stesse identiche modalità. Noi ne teatrali. Parliamo ogni volta che si ammazza, esatto, un ragazzo, parliamo di bullismo. Esatto, e delle modalità teatrali, per cui quello che ha preoccupato è semplicemente che non si crei questa tendenza, ma non si vuole creare questa, perché la serie è veramente fatta bene, dietro c'è uno studio psicologico non indifferente, perché è uno spaccato estremamente realistico per cui i ragazzi riescono a identificarsi completamente e a entrare all'interno della serie con tutti i vari, sì, personaggi, con una generazione genitori ed insegnanti che ancora i ragazzi del muretto che faceva la Rai negli anni 70-80, capisci? Il problema è che non controllando quello che fanno i ragazzi, finché abbiamo degli adolescenti più grandi che possono avere 14, 15, 16, 17 anni, possono anche conoscere quello spaccato e quel mondo e avere anche una valutazione critica differente. Ma qui ci sono anche bambini di 10, 11, adolescenti di 12 anni, nonostante che sia vietata, che si fanno delle abbuffate di questa serie e a un certo momento si sentono invasi e non riescono ad avere gli strumenti per poter comprendere quello che stanno anche vedendo. Di Netflix uno se ne fa delle dosi di 2 ore per volta. Come minimo. C'è un fenomeno molto chiaro. Si chiama binge watching, dove i ragazzi tendono a guardare una serie dietro l'altra e a farsi proprio di queste abbuffate. Dio, perché solo i ragazzi? Io passo domenica intera. No, io devo dire che anche a me 13 mi ha talmente tanto preso che a un certo momento mettevo una serie dopo l'altra. Però quando mi trovo anche adolescenti che hanno visto 6-7 ore, 6-7 puntate una dietro l'altra, obiettivamente se non hanno gli strumenti rischiano di essere invasi. Sentiamo Letizia. Letizia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io ho guardato la serie tutta quanta dall'inizio alla fine con mia figlia di 13 anni. Lei me ne aveva parlato qualche giorno prima, aveva già guardato da sola la prima puntata e le ho detto: guarda, è una cosa che interessa molto anche a me. E contemporaneamente ho letto su internet le varie critiche, sia positive che negative, rispetto a questa serie, e per cui ci ho tenuto particolarmente a guardarla con lei. Lei che impressione ha avuto, cioè, questo rapporto con sua figlia guardando 13? Ho avuto l'impressione di temi trattati che siano molto attuali anche nella scuola italiana, anche se non esattamente come sono stati descritti nella serie, perché è prettamente americana, per cui c'è tutta la questione dello sport che da noi è molto meno presente, per cui il ragazzo bullo però è bravo nello sport e fa tutto, gli è concesso tutto, da noi magari così non è. Ho avuto sicuramente l'impressione però che trattasse temi molto attuali. Sulla figlia che effetto ha fatto? Sulla ragazza che effetto ha fatto? Sulla ragazza non mi ha espresso né perplessità né particolarità. Sicuramente le è piaciuta la serie, mi ha detto che le è piaciuta molto, e io ho cercato di approfondire con lei qualche tema pian piano che si dipanavano nella serie. Io quello che ho capito a questa serie è che gli adulti sono sempre quelli che poi non possono capire. I genitori sono dei bamboccioni di quarantenni, il padre sta con il tablet a tavola, la madre cerca disperatamente di recuperare un matrimonio che si vede finito facendo la mattina le frittatine col bacon. La psicologa, questo lo dico per te, Mauro Manca, la psicologa di scuola non capisce nulla, le ragazze la prendono in giro. Quando dice alle due ragazze all'inizio: siete nuove, diventate amiche. Loro dico: ma questa che ne sa di come diventiamo amiche noi? E gli stessi insegnanti non sanno nulla, è un mondo a parte e i ragazzi sono sempre indecifrabili. Ci fermiamo un istante, 800 24 00 24, parliamo di 13. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Vi ricordate della storia che mi sono tenuta da parte? Bene, eccola qua. E riguarda te, Clay. Allora, lei e Anna eravate amiche? Sì, tempo fa. Perché tempo fa? Abbiamo smesso di esserlo. Potrebbe dirmi qual è la ragione? Le ho dato una sberla. E come mai? Credevo che stesse facendo la scema con il mio fidanzato. Cosa gliel'ha fatto pensare? Perché i ragazzi sparlavano. Loro ci trattano di... fanno cose alle ragazze di cui nessuno parla mai. 800 24 00 24. Il tema di oggi, un telefilm, 13. Una serie trasmessa da Netflix. Protagonista una ragazza, Anna, si suicida subito nella prima puntata. Lascia in eredità 7 audiocassette la serie è tratta da un libro degli anni 70, quindi allora c'erano radiocassette, l'anno... no, 2007, in cui ancora c'erano le... per me gli anni 70, sono, è passato il 2000 attualmente, del 2007 in cui sono ancora presenti le radiocassette, quindi hanno dovuto bene o male adattarla alla contemporaneità, lascia queste cassette dove lato A, lato B, tutte le cassette, ci sono i 13 motivi per cui lei si è suicidata. Tutta la storia delle puntate è una messa in accusa di tutti i suoi compagni di classe, non soltanto dei compagni di classe che l'hanno bullizzata, derisa, insomma non l'hanno considerata come lei voleva e quindi si è suicidata, e lascia loro questa grossa angoscia della colpa. È diventato un fatto di costume, la guardano ragazze di tutte le età, anche molto giovani. Mauro Manca, che è una psicoterapeuta, comincia a lanciare l'allarme. Non va censurata la serie, censura non appartiene al nostro vocabolario, ma va comunque in qualche maniera guidata la visione, perché non passi il messaggio che l'unica maniera per reagire al bullismo, al sentirsi inadeguati in una classe di totali vincenti, sia quello di suicidarsi e lasciare agli altri poi l'angoscia e l'onere di avere la colpa del proprio suicidio. Ne sto parlando con ascoltatrice, che un insegnante che fra poco sentiremo, con Mauro Manca, che si occupa dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza e anche una testata www.adolescenza.it, ma anche con persone che rappresentano una generazione meno attempata di quella di chi parla. Volevo sapere soltanto da Rachele la presenza degli adulti in questa serie. Già ho detto, sono molto evanescenti, i genitori si vedono appena. Leggendo il libro ho avuto l'impressione di leggere i fumetti dei Peanuts, in cui i genitori compaiono solo con le gambe, sono totalmente assenti, cioè i genitori ci sono solo in quanto assenti. Anna dice: io sono stata messa in punizione, ma in realtà posso tranquillamente uscire dalla finestra. L'unica che leggermente esce nel libro è la mamma di Clay, perché ogni tanto è preoccupata, perché lui nel libro nel giro di una notte ascolta tutte queste cassette, quindi lei dice: ma dove vai? Però alla fine lo lascia andare, lui poi dorme fuori. Nel telefilm è un po' ossessiva, la madre vuole per forza entrare nella vita del figlio, lo spia in camera, dice: mamma, non superare il limite di camera mia, questa è vita mia. E lei invece vorrebbe a questa un po' smania di continuare l'operazione materna all'infinito, anche per il passare dei 10 anni tra l'uscita del libro e ha un marito indifferente che sta con il tablet seduto la mattina a far colazione, anche se lei cucina stupende uova fritte, bacon, ma nessuno la considera, quindi si esaurisce nel suo ruolo materno frustrato. Filippo invece aveva detto, un'ascoltatrice, che c'è una grossa differenza fra la realtà della scuola americana e quella italiana. Tu adesso fai un'università americana, vedi preponderante questo elemento di differenza? Sì, perché praticamente guardando la serie mi sono accorto che tutte e 13 le persone, diciamo 12 protagoniste di queste cassette, sono naturalmente inserite in un ambiente scolastico in cui ricoprono dei ruoli eccellenti. All'interno degli sistemi americani, anche del liceo e dell'università, agli studenti è data molta libertà di gestire diversi tipi di funzioni. C'è quello che è bravissimo negli sport, quindi viene riconosciuta come una stella, per esempio del basket, le ragazze che per esempio fanno le cheerleaders, gli studenti migliori che fanno parte dell'amministrazione studentesca, che hanno un contatto molto diretto con i professori e possono parlare. Sono anche parlare. Intoccabili però a quel punto, sì, di vista. Sì, sono in parte intoccabili, sono quelli che magari ricoprono un ruolo talmente alto che non penseresti mai che possano essere poi protagonisti di azioni tanto brutte nei confronti di un loro coetaneo, e riescono sempre comunque a salvarsi perché ricevono tutte queste onorificenze da parte dei pezzi grossi dell'università. Senti, o l'unico, del liceo, l'unico insegnante caso. Che ha una sua personalità, invece che ruolo ricopre? Nel suicidio della ragazza, quale responsabilità? Allora, non è proprio un professore, è un counselor, che è sì. praticamente una figura di psicologo, sì, all'interno dell'ambiente scolastico. Sì, all'intento, sì. Che in teoria dovrebbe aiutarli. Esatto. Il fatto stesso che sia un counselor dovrebbe praticamente far capire che è una persona che dovrebbe aiutare gli studenti in difficoltà. Solo che nel caso di Hannah, purtroppo, non riesce a capire, o forse finge di non capire quella che sia la vera situazione che sta sopportando questa ragazza. Il fatto stesso che abbia subito delle azioni talmente riprovevoli che farebbero pensare appunto a una conseguenza legale molto brutta anche per chi ha commesso questo tipo di crimine. È come quindi se tende fingesse. A minimizzare come minimizza. A un certo punto mi parte pure di ricordare che consiglia proprio a Anna di dimenticare sì. quello che ha subito. Le dice: hai due opzioni, puoi denunciare perché si parla di un probabile stupro, o oppure altrimenti se non vuoi denunciare ti consiglio di dimenticare. Ecco Giuliana, l'insegnante ci ha chiamato per prima, che ho accolto con spunto polemico, ma fatto il gioco. Qualcuno mi dice: impara la modestia e l'umiltà con la povera insegnante. Io non è mica l'ho presa con lei, mi serve, si figuriamoci. Allora Giuliana, però senti cosa dicono i giovani, che in realtà uno degli imputati del suicidio che ha più responsabilità è proprio quello che farebbe far parte del corpo degli adulti, degli insegnanti, sì, che tende a minimizzare. Accade questo nella realtà che lei conosce? No, beh, non abbiamo la figura corrispondente nella scuola italiana, quindi non c'è questa opportunità, che in realtà se fa bene il proprio lavoro sarebbe anche un ottimo supporto. Insomma, ma di solito chi ha dei figli che sono lambiti da episodi di bullismo si sconta, sì, sempre con la scuola, che tende a minimizzare. La preside dice non è così. Soltanto la scuola, e comunque non è soltanto il bullismo. Una cosa, uno spunto che c'è stato, che mi ha colpito particolarmente, è stato il fatto che i ragazzi dicessero: sì, però quando noi parliamo dei nostri problemi a casa, la risposta è: ma sì, ma di che cosa ti lamenti, che cosa ne sai della vita? Cioè, quindi voglio dire, sì, benissimo, il supporto, guardarlo insieme, eccetera, ma magari non arrivare a quel tipo di situazioni, cioè dare il peso giusto ai problemi dei ragazzi. Fermo un attimo, interessante, Maura Manca. È questo, il peso giusto uno lo recepisce solo quando la ragazza si suicida. Noi abbiamo parlato mille volte di bullismo, ma se ne parla sempre quando qualche ragazzo si schianta. E allora improvvisamente le cose sembrano indifferenti, diventano dei macigni. O sbaglio? Esatto, questo è il problema, anche perché Anna e la serie lo fa vedere veramente bene come il suicidio non sia una condizione impulsiva, ma che sia costruito nel corso del tempo. Quando l'ha costruito in mesi. Esatto, e giorno dopo giorno, e i segnali non sono stati visti né dalla scuola né dai genitori, non c'è un colpevole come non c'è nessuno da assolvere. Ci fa una domanda tecnica? Sì. Nella prima puntata si vede che l'ultima volta che la vede il protagonista, lei si taglia i capelli anche in maniera brutta, non va da un parrucchiere, se li taglia proprio con un gesto di sfregio. È significativo questo? Il taglio dei capelli, soprattutto in quella fascia di età, è estremamente significativo, perché può essere da un lato per moda, ma dall'altro lato, insieme a tutta una serie di altri segnali, è un cambiamento drastico all'interno della sua personalità. Quindi, e poi in Italia abbiamo comunque gli sportelli di ascolto, noi come osservatorio ne abbiamo tantissimi nelle scuole, che sono degli spazi dove noi ascoltiamo i ragazzi e in base ai loro problemi in maniera anonima, per cui si possono rivolgere a noi. Ma bisogna che qualcuno ce li porti o ce li indirizzi. Marianna, sentiamo Marianna. Sì, io ho visto la serie, adesso la sto vedendo per la seconda volta perché ho detto al mio compagno di vederla. Lei quanti anni ha, Marianna? Io ho 35 anni, quindi sono odontoiatra e lavoro con ragazzi e bambini. Quindi ho forte riscontro con genitori e ragazzi di tutte le fasce d'età, dai 6 anni fino ai 18 anni. E trovo che la serie è meravigliosa, consiglio a tutti di vederla. Sì, è fatta da Dio, su questo non ci piove. Sì, questo no, ma la cosa è che quando dico ai ragazzi dovete vedere la serie, perché io sono una che a tutti i ragazzi che si siedono sulla poltrona dico dovete vedere questa serie, chi mi ha detto l'ho vista, alcuni genitori mi hanno detto no, l'ha vista lei da sola perché era troppo forte per me, e lì mi sono usciti gli occhi di fuori. Ma lei come fa, Marianna, a far passare però il concetto che il suicidio non è una via d'uscita accettabile, non è che uno è creando una grande sceneggiatura della propria morte gloriosa e lasciando il peso dell'angoscia a coloro che l'avrebbe provocata, non risolve il suo problema? Assolutamente no, appunto ecco perché consiglio di vedere questa serie, perché la mia impressione di questa serie è che siccome lei è molto presente in tutti gli episodi e quindi questa morte viene un po' tralasciata, no? A un certo punto. Ma uno si dimentica che si suicida dopo 5 minuti, siccome lei è sempre presente. Sembra un gioco. Non sembra un gioco, è che alla fine dice: se non fosse successo questa cosa, se tu non avessi preso la decisione del suicidio, ci sarebbero stati gli strumenti per risolvere tutti i tuoi problemi. Però ognuno capisce che le cose può anche dirle. Il vero impatto, la vera notizia è quando qualcuno poi muore. Questo è il fatto, questo è indubbio. Fermiamoci un istante, tra poco. Melog, cronache meridiane. Ho l'impressione che tu abbia bisogno di qualcosa, ma non sai che cos'è. Allora partiamo da qui. Ho bisogno di fermarmi. Cioè, che intendi dire? Vorrei che tutto quanto si fermasse. Le persone, la vita. La vita? Vedi, è normale che ci si sente in colpa, ma facciamo del nostro meglio. Secondo me sono palle. Secondo me dobbiamo sentirci in colpa, potevamo dare di più. Certo, possiamo volerci più bene, ma siamo esseri imperfetti. E amiamo in modo imperfetto, molto spesso sbagliamo. Come fa a rassegnarsi? Lei è un counselor. Devo rassegnarmi per forza. Puoi cogliere tutti i segni, riuscire a capire i problemi e comunque non vedere qualcosa. Per me non è abbastanza. Cosa succederà? E l'unico che non ha visto proprio quello che era molto palese, proprio lui, il counselor, quello che aveva gli strumenti anche professionali per determinare, leggere quelle che erano le anticipazioni, i segnali di suicidio di Anna, ma non l'ha fatto. Quindi il maggior colpevole 13 è proprio l'ultimo, l'adulto, il grande. Rachele. Rachele, su questi segnali del suicidio, tu che hai letto il libro? Nel libro sono molto più palesi, il libro è molto sì, più didattico. Sì, nel libro sono elencati e quindi Clay nota i capelli. Che si è tagliata? Sì, quindi il cambio di look potrebbe essere un segno. E poi c'è un altro dettaglio importante che è l'abbandono degli oggetti cari, perché verso la fine Anna regala la sua bicicletta a Tony e lui infatti poi dice: io forse l'avrei dovuto capire perché lei stava lasciando un oggetto caro in una sorta di eredità. Filippo, invece c'è una cosa che volevo che tu mi approfondissi meglio. L'ipocrisia generale che serpeggia in questo film, soprattutto sull'elaborazione ipocrita del lutto da parte dei compagni di classe, accade anche negli episodi di cronaca. Muore una ragazza suicida, diventano tutti innocenti, tutti angioletti. Ah, li volevamo tanto bene, ne stavamo vicini. Elencami nel telefilm quali sono i segni, cominciando dall'armadietto ipocrita con tutti i bigliettini sì, d'amore. Sì, praticamente nella una delle primissime scene del telefilm si vede chiaramente che molti studenti hanno iniziato una campagna hashtag non dimenticare e ognuno di loro si fa fare praticamente un selfie davanti all'armadietto che apparteneva ad Anna, dove erano stati posti dei fiori, cartoline, messaggi di auguri, tra cui anche quello che è stato l'inizio di tutto. Sì, che gli ha fatto e la proprio foto. La prima scena che mi è venuta in mente quando ho visto proprio la prima episodio del telefilm sono due studentesse che vanno davanti all'armadietto, si fanno la foto, il selfie e dicono: ah, ma come si chiama l'hashtag? Metti hashtag non dimenticare, per dire non conoscevano neppure questa ragazza, non sapevano neppure chi fosse, però seguono questa moda che andiamo a farci l'hashtag per far vedere che ci teniamo tanto, che ci siamo preoccupate, che ci dispiace che sia morta. Magari non la conoscevano neppure, non sapevano neppure chi fosse. Questo fa parte degli strumenti di rappresentazione della propria immagine. C'è anche un altro episodio quando decido di organizzare un concerto, sempre con questo tema non dimenticare, e ognuno scrive questi striscioni sempre no al suicidio, non dimenticare, insomma state all'estero, ma non pensate a questo, cerchiamo tutti quanti di non dimenticare quello che è successo. Tutte scene di ipocrisia per giustificare il fatto che sia successo in realtà un fattaccio che è dovuto praticamente ad altre cose. Allora, Maura Manca, quante ne hai viste di queste rappresentazioni di fratellanza pubblica che non corrisponde poi a un reale comportamento solidale nei confronti di una vittima di bullismo? Beh, è tipico anche della teatralità adolescenziale, del voler far parte di quel momento, di quell'episodio, il famoso io c'ero in un certo senso da quel punto di le vista. Le interviste in TV che si fanno quando c'è un ragazzo che muore, tutti li vogliono bene, era amico di tutti. Dove tutti loro vanno in primo piano e la vittima va in secondo piano. Questo poi è il movimento che cerca di far vedere anche assolutamente la serie, e devo dire che lo fa molto bene da questo punto di vista. Come fa vedere molto bene quanto l'adulto tendenzialmente intervenga dopo l'evidenza, intervenga subito dopo. Cioè, quando è successo sul fatto si parla di suicidio, i genitori diventano presenti o cercano di invadere la vita dei figli, e invece prima c'è una totale assenza, e questo purtroppo è la finché realtà. Finché non danno fastidio non c'è problema. Ferdinando, buongiorno. Buongiorno, mi sente bene? L'ascolto, sì. Ecco, niente, io mi collego agli ultimi discorsi che hanno fatto i suoi ospiti. Io sono un insegnante che si è ritirato a 35 anni perché sono passato a fare la professione privata. Io come insegnante ho fatto quello che viene contestato dai suoi ospiti, cioè io li ho ascoltati, li ho guardati e qualche soluzione l'ho anche individuata, non così grave come è l'aspetto trattato nella televisione. Quindi volevo richiamare tutti quanti, volevo richiamare a una maggiore attenzione nell'insegnamento, perché il corpo insegnante deve essere non solo quello che dà i dati tecnici della propria materia, ma è il primo che osserva prima che succedano i fatti, o il primo che può osservare prima che succedano i fatti, può osservare il futuro disastro. Lo vede. Il telefilm lo dice chiaramente, il telefilm implicitamente lo dice. il counselor, che è quello che doveva rendersene conto, non ha strumenti, né voglia, strumenti, capacità, attitudine a essere quello che doveva dire: guarda, questa ragazza ha un problema, è la vittima di un gruppo di ragazzi sorridenti, vincenti, che la scuola tiene in grande considerazione perché vincono le gare sportive, perché sono un buon tramite. È un po' come accadeva ai tempi che c'era il servizio militare, i nonni erano quelli che permettevano di mantenere l'ordine della truppa, il nonno aveva più efficienza di un caporale di giornata, perché era quello che, facendo i gavettoni, teneva buoni e teneva il clima di tranquillità. Maura Manca. Sì, e poi bisogna anche sottolineare un fatto che tante volte si minimizza, perché c'è il rischio che poi venga infangato il nome della scuola. Certo, il nome della scuola, e questo degli insegnanti. È quello che emerge ed è succede tante volte. I genitori dei bravi ragazzi, che mai vorrebbero pensare, esatto, che i loro ragazzi sono colpevoli. Esatto, questo nelle serie emerge benissimo, ed è quello che purtroppo succede anche nello spaccato italiano. Quindi il consiglio, Maura Manca: se un figlio giovane, 10 anni, 11 anni, 12 anni, guarda questa serie su Netflix, state accanto a lui almeno finché la guarda. Sì, perché non sono in grado di comprendere. Grazie, alla prossima.